diciamo che quest'anno i creativi di tutto il mondo si sono dedicati un po' alla battaglia fra i marchi, quindi vedremo deodoranti contro altri deodoranti, vedremo automobili contro moto e nuovi modi per fare umorismo dalla Russia e dal Giappone. Quali sono i paesi emergenti, per così dire, in fatto di pubblicità attualmente? Beh, sicuramente tutto l'est è un mondo tutto da scoprire, e quindi anche la Cina e Giappone sempre di più. Ci sono anche dei fenomeni interessanti dall'est europeo, Romania, appunto Russia, e anche diciamo paesi tipo Sudafrica e America Latina, che hanno imparato diciamo in questi anni alcuni dei segreti, dei codici della comunicazione pubblicitaria, e li stanno interpretando in un modo anche originale. Lo sapete che nei negozi ora si può anche dormire e che i cibi per gatti possono essere buoni non solo per loro? Nel focus sui trend di questa settimana parliamo di consumi senza confini. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte dedicata al focus sui trend. Oggi parliamo di consumi senza confini. Accanto a me, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello di Memetti Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Oggi parliamo di tutti quei prodotti e servizi e il loro modo di comunicarli che oltrepassano in qualche modo un confine che può essere quello di settore, perché invadono campi merceologici altrui, oppure quello di vendita, perché occupano spazi, formule e orari diversi. Consumi dilatati, trasversali a molte tipologie di consumatori e canali distributivi, dalla moda ai supermercati. Patrizia. Sì, i confini si fluidificano, lo dicevamo già nella puntata sui consumi transgenerazionali, in quel caso parlando specificamente del confine anagrafico. Oggi parliamo di estensioni, appunto, di settore, merceologiche, ma anche di orari. Per esempio, da settembre anche in Italia il primo e unico supermercato aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è un punto di vendita di Carrefour a Milano in piazza Clotilde. E parliamo anche di dilatazioni spazio-temporali, che suona un po' fantascientifico, ma vuol dire appunto che possiamo acquistare sempre e ovunque, e questo significa farlo sia nel mondo fisico che in quello digitale, ormai come sappiamo imbricati in un nuovo vero ecosistema fondato sulla multicanalità che è informativa e di acquisto sul fronte del processo decisionale e di consumo. Nella grande distribuzione, nel retail in generale di servizi e prodotti, sembra appunto che tutti stiano cominciando a fare tutto e vendere tutto. Caso paradigmatico quello di Amazon, colosso della distribuzione online, che ha cominciato dai libri, come noto, e ora è un effettivo concorrente di Walmart, leader americano mondiale della grande distribuzione, nonché di IKEA. Bene, Walmart ha deciso di non vendere più un solo Kindle nei suoi ipermercati. Ma perché togliere questo prodotto specifico presente in tutti i suoi punti vendita, continuando tra l'altro a vendere iPad e altri device simili di Samsung, Google, eccetera? Perché Kindle non è solo un e-reader, ma è l'accesso all'universo immenso di Amazon. Quindi Walmart si è accorta che chi lo provava, ancora prima di acquistarlo già nel suo stesso negozio, cominciava a navigare e comparava i prezzi degli articoli a scaffale, dai mobili per la casa agli abiti, scarpe, eccetera, quindi quelli fisicamente presenti lì sugli scaffali intorno, con le stesse referenze presenti su Amazon e conseguente ordine e acquisto online. Quindi il Kindle diventa un caso molto interessante di prodotto acquistabile per uno specifico consumo culturale, la lettura appunto, e che poi diventa una sorta di porta magica, di cavallo di Troia attraverso cui si entra in un mondo dove c'è tutto. IKEA è un altro caso molto interessante di espansione innovativa e coerente con i valori di questo marchio sempre più accessibile e presente nelle vite delle persone. Già colosso dell'arredo low cost del food, in Svezia per esempio vende mobili usati dei suoi clienti, e a Londra, questo è l'ultimo progetto di grande interesse, ma sono già in lizza molte altre città europee, debutta nel campo dell'urbanistica con un progetto di costruzione costruzione e gestione infrastrutturale di un nuovo quartiere residenziale, naturalmente accessibilissimo, che sorgerà nell'ex area industriale a ridosso del villaggio olimpico. E avevamo già parlato del caso Home Plus, l'insegna di Tesco in Corea, con l'iniziativa Temporary in metropolitana, caso notissimo, in sostanza il negozio che esce dalle sue mura fisiche e si espande tale quale in un altro luogo. Quindi non solo nel metro si poteva fare la spesa, ma ora anche nelle pensiline degli autobus. Il caso è stato di grande successo, tanto che analoghe iniziative sono state fatte da Carrefour, da Sorlidisco e altri. In linea con questa dilatazione fisica, il vasto fenomeno anche dei pop-up store, cioè dei negozi temporanei, dalle vending machine ai negozi mobili su ruote, Apecar, eccetera, di marchi che in questo modo colonizzano spazi e zone oltre quelle dei punti di vendita fisici. Sul fronte solo promozionale, non ancora dell'acquisto, in Italia l'innovativa campagna di Clicca Promo, attiva a Milano in questi mesi, affissioni interattive nella metropolitana con poster piuttosto grandi, fino a 4 metri, che sono degli scaffali virtuali del supermercato, per poter scoprire le migliori offerte di diversi punti vendita del prodotto scansito grazie al QR code direttamente dallo smartphone. Non possiamo non citare il mondo moda, da sempre trasversale, in questo caso ai generi, con il cross dressing, stile androgeno, un po' maschile, un po' femminile, insomma i furti femminili nell'armadio maschile per esempio non sono niente di nuovo, è un classico che ritorna ciclicamente, ma il tema delle sfilate invernali è appunto l'abito maschile per lei, da Max Mara, Miu Miu, Etro, Donna Karan, eccetera. Vediamo questi tagli severi per pantaloni, jacket, ailleurs, fazzolettini nei taschini, cappotti, molto gessato, cravatte e cappelli. Sconfina anche la storica polo di Lacoste, che diventa un abito in vista delle celebrazioni dell'80° compleanno del marchio nel 2013. L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà. Patrizia, abbiamo voluto giocare con la sigla della celeberrima serie TV anni 60 per dire che i confini superati o da superare a volte diventano anche un po' estremi, è così? Sì, siamo per esempio nel regno animale, ma lo sconfinamento di questo prodotto è dagli animali agli umani. Sto parlando del caso di cibo per gatti e umani del marchio Almo Nature, che si propone con un posizionamento trasversale, appunto. Lo spot è a fumetti, mostra un astronauta e un gatto nello spazio. L'umano mangia cibo in scatola palesemente disgustoso, mentre il gatto mangia delle crocchette o simil con evidente soddisfazione e le offre al compagno di viaggio. Il claim recita: così buono che lo potresti mangiare anche tu. E invece per la coppia cani padroni, questa volta indissolubile anche stilisticamente, a Milano apre il primo negozio al mondo di super lusso coordinato per la coppia. Oltre a vere borse porta animali fatte a mano da passeggio, eleganti cappelliere cucce, una linea di gioielli di alto artigianato proprio per cane e signora, con soggetti canini tutti pezzi unici da indossare insieme. E ci sono prodotti o meglio metaprodotti che si avvicinano molto ai confini della realtà. Agli inserzionisti pubblicitari che usano il suo sito, di nuovo Amazon offre non solo servizi di credito, ma il nuovo vero prodotto saranno gli utenti stessi. Lo racconta Marcus Wolsen su Wired.com nell'articolo intitolato Amazon's Next Big Business is Selling You, e quindi di fatto la vendita degli stessi utenti è di fatto lo sbarco nel mondo dell'advertising del megastore online che, attenzione, sa esattamente quello che compriamo, e per gli inserzionisti questo non è cosa da poco. Tornando ad una scala diversa di esempi del fenomeno, non così estremi ma neanche così banali, le farmacie, che da sempre sono quasi profumerie, ormai diventano dei mini market di alimentari, offrendo notevoli gamme di prodotti dietetici freschi, secchi e surgelati. gelati. E poi i supermercati che vendono benzina, con il caso della stazione di servizio dove fare anche la spesa, quella della Shell con Carrefour, con la formula mini market. Il primo caso è la recente apertura milanese, e tra le offerte speciali alla lettera nei supermercati troviamo, come noto, le ricariche telefoniche, servizi di fotocopiatura, lavanderia a secco, stiratura camice e mutui, prestiti e depositi. In effetti le invasioni di campo più sorprendenti, diciamo così, riguardano proprio il settore del credito. Le banche tradizionali sconfinano, vendono per esempio diamanti come fossero dei gioiellieri, e poi hanno filiali che sono sempre più uguali a dei veri negozi. Ci sono catene di GDO che aprono banche. Marks & Spencer aprirà 50 filiali nei prossimi 2 anni proprio della Marks & Spencer Bank in tutto il paese, così come Banca Carrefour, parte del gruppo omonimo, che è già sbarcata in Italia. E Google sta per lanciare, cominciando dal Regno Unito, la sua carta di credito. All'aeroporto di Orio al Serio in funzione un distributore automatico di lingotti d'oro, 70 euro al grammo per chi vuole di nuovo diversificare gli investimenti senza passare dalla banca. Anche la pubblicità oggi si muove sulla rete, nella rete, come un vero flusso, non si accende né si spegne, non è più come uno spot, ma è ovunque, dunque senza confini. Naturalmente non tutti gli sconfinamenti vanno a buon fine. Citiamo un marchio, Virgin, che ha dato vita a più di 100 aziende negli ambiti media, intrattenimento, turismo, e che però ha in bilancio anche molti insuccessi proprio di brand extension. La Virgin Cola, per esempio, i cosmetici Virgin V, l'intimo Virgin Wear, la linea aerea Virgin Charter e il social network Virgin Student. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo ad Amsterdam su Consumi Senza Confini? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano, ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. L'esperienza di consumo si dilata a tal punto che nei negozi si può anche dormire. È quello che succede nel flagship store del noto marchio di design olandese Droge, che si è sempre distinto per un approccio al design ironico e concettuale. L'innovativo concept si inserisce all'interno del progetto di ampliamento dello storico negozio del brand e nasce proprio con l'idea di prolungare in modo inedito il tempo di permanenza dei visitatori, ridefinendone in modo radicale il concetto di accoglienza del punto vendita. I passanti dall'esterno non noteranno grandi cambiamenti, a parte la nuova insegna che recita per l'appunto Hotel Droge. Ma una volta entrati, i consumatori si ritroveranno immersi senza soluzione di continuità tra le diverse identità del brand, con molteplici possibilità a disposizione. Fare shopping fra le ultime collezioni, chiaramente, assistere a conferenze o cicli di letture su arte, società e design nell'apposita gallery, rilassarsi in un giardino in cui convivono elementi naturali e artificiali, ricevere consigli di bellezza in uno spazio beauty dove sono in vendita prodotti di cosmetica di nicchia, o ancora gustare ricette fatte in casa nella dining room. E per chiudere in bellezza, soggiornare nell'unica stanza posta al piano superiore e ovviamente arredata con i mobili del marchio. Grazie Alessia. Patrizia, quanto tutto questo ha a che fare con l'innovazione? Beh, la stessa innovazione oggi è senza confini, si parla di cross innovation ed è il nuovo paradigma che suggerisce alle imprese di collaborare con nuove strategie di partnership, non solo con i clienti consumatori, con gli utenti della rete, ma addirittura con i concorrenti. Ferrero e Mars, per esempio, competitor nell'alimentare, insieme hanno sviluppato un nuovo sistema di distribuzione e di logistica dei prodotti. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it, sezione programmi. La trovate anche sulla nostra pagina Facebook. Complimenti a chi con un messaggio al 349-238-6666 si è aggiudicato i biglietti per la notte dei Publivori. Verrete contattati al più presto dal nostro ufficio marketing. Noi ci risentiamo come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.